Il sabato del villaggio. Buongiorno, rieccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Lo sentite? Siamo in esterna, è un sabato molto particolare, questo perché siamo in onda dal Festival di Sanremo. Quella che sentite in sottofondo è la folla sotto il Teatro Ariston. Inevitabilmente siamo in onda da Sanremo anche per una volta nella terza ora del sabato del villaggio, ma dalla prossima settimana ovviamente torna anche l'appuntamento con RadioTube. Ma cosa succederà in questa terza ora del sabato del villaggio? Un Sanremo inevitabilmente social, ma come gli artisti usano Twitter, Facebook? Come reagiscono e interagiscono? Lo abbiamo chiesto a big e cantanti giovani. La comicità e la rete, il successo della stand-up comedy qui a Sanremo è diventato un fenomeno. Noi ve lo avevamo già consigliato nel sabato del villaggio, andiamo a incontrare Saverio Raimondo. Parleremo poi di stile, di eleganza con Enzo Miccio, ma non solo, ma subito della cantante di cui tutti parlano da mesi e di un appuntamento europeo che si avvicina. A Sanremo 2015, in anteprima, Heroes, Concita Wurst. There was a queen in a crimson robe, a lion with a crown of dust and gold. Tom, che voce potente! Exactly. Oh, thank you so much, thank you so much. Grazie, grazie. Una tantissima. Grandissima voce, ha vinto, abbiamo detto, l'Eurovision Song Contest. Tra l'altro, vi ricordo, è una sorta di gemellaggio. Abbiamo voluto ospite proprio perché chi vincerà Sanremo quest'anno, se vorrà, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. Com'era? Dimmi la verità, dimmi la verità. Secondo te, questa barba t'ha aiutato nella vittoria o no? Well, it obviously helped me. Because ovviamente ha aiutato me, perché mi sarei sentita incompleta senza una barba. E se uno non si sente pronto, non è possibile avere successo. Quindi per me la barba ha avuto un'enorme importanza. Non so se abbia contato per gli altri, ma per me è stata molto importante. So let the walls come down and the colors light up the sky. We could be heroes, we could be heroes tonight. And when the hearts break loose and our love is like a battle cry, we could be heroes, we could be heroes tonight. E questo è il sabato pomeriggio, non solo del sabato del villaggio ma anche del Teatro Ariston. Siamo sulla terrazza che domina la folla di Sanremo, la folla che sta aspettando il vincitore, ma la folla che sta aspettando anche il nome di chi andrà all'Eurovision Song Contest. Questa era Concita Wurst, l'avete riconosciuta, è stata ospite con un grande successo qui al Teatro Ariston. Bene, parliamo ovviamente con il più grande esperto di Eurovision che abbiamo sempre al sabato del villaggio. Buonasera Eddie Anselmi. Buonasera Marta, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori del sabato del villaggio. Che dire, non succedeva da tanto che il regolamento di Sanremo, che il racconto del Festival di Sanremo, premiasse il vincitore con la possibilità, non è ancora un automatismo, una possibilità, un diritto, e un'opzione di partecipare in rappresentanza dell'Italia a Eurovision. I giochi sono ancora aperti, quest'anno oggi cambia il panel che ha fatto la classifica agli eliminati ieri, quindi non sappiamo chi come voteranno gli esperti, la giuria demoscopica e il televoto. I risultati di ieri erano influenzati anche dal nostro responso, quello della sala stampa che ha votato le prime due serate, e quindi una gara al semibuio possiamo già avere sulla base di un nostro feeling di esperti, di navigati, commentatori, osservatori di ciò che è successo precedentemente, e possiamo anche capire chi, se selezionato e se accettasse, perché bisogna che sia selezionato e che sia disponibile, farebbe bene in quel di Vienna. Ecco, ma a te che conosci bene l'Eurovision e che lo frequenti anche con la delegazione italiana, che tipo di nome piacerebbe? So che non mi puoi fare dei nomi precisi perché insomma hai un incarico super partes, ma che tipo di figura sarebbe l'ideale per l'Italia all'Eurovision? Diciamo che un progetto internazionale sarebbe meglio di un progetto italiano che fa una rapida vacanza all'estero. E viceversa, se ci fosse un Eurovision inserito come un tassello in un quadro che guarda dall'Italia altrove, probabilmente ci sarebbe più impegno e più collaborazione. Questo in linea generale. Poi abbiamo avuto cantanti che avevano l'Eurovision come una tappa sui generis della loro carriera, che invece sono stati benissimo e hanno recitato benissimo la loro parte. Quindi non c'è in realtà una ricetta. È chiaro che se una persona volesse usare l'Eurovision per fare un pezzo di strada verso l'estero, potrebbe essere più motivato di chi viene a fare un'esperienza. Fino a qualche anno fa avremmo dovuto spiegare cos'era l'Eurovision Song Contest, anzi avremmo dovuto spiegare che era quello che un tempo si chiamava Eurofestival. Invece quest'anno ne parlano tutti. Secondo te cos'è stato l'effetto Concita? Perché quest'anno anche sul palco del festival si è sempre citato l'Eurovision? È un lavoro che parte da lontano e parte dal grandissimo impegno di chi all'interno dell'azienda Rai ha creduto nell'Eurovision. Cito Nicola Caligiore, che è il capo delegazione dell'Italia ormai dal 2011, è uno dei rari casi di progetto a medio termine che ho visto io nella mia esperienza di spettatore in questo paese. Sono molto lusingato dall'esserne parte, seppure insomma da qualche anno. E come dire, normalmente in Italia siamo un orizzonte temporale di 6 mesi. Riproporre un format che era stato accantonato dopo 13 anni, e un format che per mille ragioni non aveva mai avuto il successo che ha in certi paesi del nord, è stata una cosa difficile. Tutto e subito probabilmente non avrebbe funzionato. Piano piano oggi l'Eurovision è diventato mainstream. Io ricordo quando nel 2007 ero unico rappresentante italiano in sala stampa insieme a 3.000 giornalisti stranieri. Quando nel 2011 siamo tornati, ancora le persone, io lavoravo con San Marino, mi chiedevano: ma dove vai? Cosa vai a fare? Oggi mi chiedono: ma chi va all'Eurovision? Beh, direi che è una soddisfazione. Secondo te, allora, la sera in cui è stata ospite Concita, c'è stato il picco dello share su Concita, perché alla fine in tanti la stavano guardando, anche se era a ora tardissima. Su Twitter è stata twittatissima e commentatissima. Il segreto del successo di Concita, perché è un successo che al di là della curiosità immediata, appunto, la figura della donna con la barba, eccetera, eccetera, ma comunque è un successo e una curiosità che continua dopo quasi un anno. Io non vorrei scomodare i mass mediologi parlando del postmoderno, ma uno dei successi del postmoderno è la contaminazione, cioè prendere elementi da immaginari diversi e fonderli. Concita non ha vinto perché era la donna barbuta, Concita ha vinto perché era la donna barbuta che cantava una canzone alla Shirley Bassey, un Bond theme. Questi due elementi messi insieme, il volo non sono i favoriti di Sanremo perché cantano lirica, il volo sono i favoriti di Sanremo perché assomigliano ai ragazzini di Harry Potter, cantano lirica con un arrangiamento rock. È la contaminazione tra cose diverse. Può funzionare perché ci sono maionesi che impazziscono, ci sono però contaminazioni che funzionano. L'Eurovision è una storia continua di grandi successi e alcuni tentativi di ciambelle senza buco. Ma se tu potessi esprimere un desiderio, secondo te l'Italia sarebbe già pronta per vincere l'Eurovision e ospitarlo l'anno successivo, oppure deve ancora maturare questa esperienza eurovisiva in Italia? Io penso che, diciamo, non siamo mai pronti, cioè è sempre perfettibile, però a un certo punto bisogna partire. E a forza di rinviare si ha sempre paura. A un certo punto bisogna buttarsi. Il desiderio che io ho è che ci sia il coraggio di riconoscere e premiare le competenze che possano fare l'Eurovision in Italia, perché questo paese può farlo come fa tante altre cose bene. Grazie Andy Anselmi per essere stato con noi e buona finale del festival. Grazie anche a te, incrociamo le dita, vediamo cosa succederà stanotte, chi staccherà questo biglietto per Vienna. Il sabato del villaggio. Buongiorno. Buongiorno, rieccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Un sabato molto particolare questo perché siamo in onda dal Festival di Sanremo, inevitabilmente in onda da Sanremo anche per una volta nella terza ora del sabato del villaggio. Il tema però lo abbiamo affrontato anche nel nostro RadioTube ed è quello dei cantanti e i social network. Prima del festival, secondo Reputation Manager, tra i big sul podio di Facebook, Nesli con più di 940.000 fan, Anna Tatangelo con 872.000 e Il Volo con 825.000. Su Twitter invece la più seguita è Anna Tatangelo. Seguono Irene Grandi e Il Volo. Siamo andati a chiedere un parere a chi usa molto i social, intanto proprio il più popolare di Facebook, Nesli. Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai. Fondamentale, guarda, quella cosa del il più social dei cantanti di Sanremo è stato proprio motivo d'orgoglio mio e di tutti quelli che mi seguono. Io ho sempre usato Facebook come mezzo diretto, cioè tuttora lo gestisco io, scrivo io, rimuovo i commenti brutti io, faccio tutto io. Addirittura mando a Natale i regali, mandavo lettere private ai fan, cioè mi piace proprio quel contatto. Faccio un giro di in-store fittissimo, non perché è un firmacopie per me, ma perché io molte facce le riconosco, lo so anche i nomi, quindi li vedo e gli dico, sei tu. Quindi loro, è uno scambio molto forte e la prova di essere primo in quel podio è proprio la dimostrazione. E il mio andrà tutto bene diventa il loro per due ragioni. La prima, perché evidentemente ci sono tante persone là fuori che non hanno qualcuno che glielo dica. La seconda è perché mi piace scrivere di me, ma degli altri. Cioè non mi piace scrivere di me, per quello il rap poi è stato un mondo che non mi dava più spazio. Perché il rap se la prende sempre con qualcuno e non sai mai chi è sto qualcuno. Perché in realtà poi qualcuno è lui, è quello che se la prende. E non mi dava la possibilità di esprimere cose che non erano per me, cioè erano mie ma non rivolte a me. Perché sennò diventa un'autocelebrazione o se no non c'è l'esigenza di pubblicarla, che qualcun altro lo ascolti. Quindi mi piace l'idea che la mia storia diventi la tua e mi piace l'idea che nel momento in cui la pubblico non è più mia. E questa cosa non era soltanto una mia idea, ma la vita mi ha dato la prova con La fine di Ferro. Era poi di Ferro, perché lui dice io la sento mia, è mia. E quindi una canzone ha questo potere. Nell'album c'è un pezzo che si chiama Il mondo è come una canzone, perché la figata, secondo me, il potere che deve avere la parola e la canzone è quella, che non è più tua, è poi di un altro, di altri. Questo è il bello. È già finito tutto, ma ricomincia ancora. E ancora. È popolare in rete, usa bene i social, ma cosa ne pensa Neck? Hai 200.000 follower su Twitter, ho visto adesso, usi Instagram, usi social, che rapporto hai con... Poi vedo che li usi tu, che rapporto hai con chi ti segue? Beh, è un rapporto che ho imparato con il quale ho imparato a crescere, e ho imparato a crescerlo, perché non avevo, devo dire la verità, 200.000 follower fa, non avevo un gran rapporto con la tecnologia, quel tipo di tecnologia, però devo dire che è affascinante. Da tenere a debita distanza, ma da utilizzare secondo proprio determinate esigenze, cioè quelle di raggiungere il più possibile più persone, anche quelle che magari non ti seguono o perché non ti conoscono, ti vorrebbero conoscere, e attraverso anche alcune frasi o alcune foto già puoi dire tanto, puoi già dire tanto di te, però non deve essere solo quello il punto di riferimento. Secondo me la musica al di sopra di tutto, il rapporto umano non deve mai mancare. Leggo che cioè mancavi da 18 anni da questo palco, com'è possibile intanto, visto che tu ne hai 25, a guardarti? Il silenzio in radio è eloquente. Allora io ti ringrazio di questo bellissimo complimento che accetto, me lo tengo tutto, anzi dopo mi dai il campione della tua voce e la metterò ad libitum sul sito. Siamo fatti per amare. Amore, fatti avanti amore, senti quanto rumore il cuore fa da solo. Dividiamolo in due, io la tengo per te, la sua parte migliore. Fatti avanti, amore. Oltre 230.000 follower su Twitter e ha creato anche l'hashtag cancelletto voto straordinario, Chiara Galiazzo. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me, se poi ti basta quello che ci unisce, un po' d'amore e poche regole. Mi chiedi spesso di chi sono quegli occhi che ci guardano. Io ti rispondo, sono stelle, ma tu non ci credi neanche un po'. Allora saliremo sopra il cielo, a piedi nudi, mano nella mano. Andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo. E io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Tu sei una che usa molto i social, senti le reazioni dei tuoi fan, che tipo di feedback ti hanno dato? Beh, mi sembrano contenti, io poi dopo ci faccio molta attenzione a quello che dicono loro, a volte gli dico datemi i pareri, perché comunque siccome sono dei fan intelligenti mi danno delle critiche molto costruttive. Concludiamo con i giovani, come usano i social ad esempio i Cuzzo? Facciamo betting a volontà, io mi diverto e anche tu, però lo ammetto, vorrei di più. Noi cerchiamo di utilizzare al meglio i social, fra di noi a volte partono anche delle gare di chi fa più like, a volte no, vabbè. Però diciamo che nell'epoca in cui siamo noi, diciamo il momento che stiamo vivendo, spingere diciamo il progetto sui social è molto importante. Bisogna anche dire che a volte i social sono delle facciate, nel senso magari uno su una pagina vede tanti like, però magari poi non è detto che il gruppo che ha 30.000 like su Facebook abbia in realtà tutti quei fan. Però diciamo che è molto importante, noi cerchiamo di utilizzarlo al meglio e vediamo che comunque i risultati arrivano. Elisa, se vuoi ti darò ciò che non hai, amore poi. Troviamo tra poco ancora con questa puntata speciale del Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Buongiorno, rieccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio. Un sabato molto particolare, questo perché siamo in onda dal Festival di Sanremo, inevitabilmente in onda da Sanremo anche per una volta nella terza ora del sabato, ma dalla prossima settimana ovviamente torna anche l'appuntamento normale con RadioTube. Parliamo comunque in questo blocco di un fenomeno della rete di cui in questi giorni si sono occupati tutti e un po' a sorpresa. Salve a tutti! Salve a tutti! Salve a tutti! Ebbene sì! Sono un nano, ma questo non è un video porno, anche perché vi ricordo che se mi state guardando siete su www.sanremo.rai.it e non è esattamente il sito dove io andrei a cercare video porno. Vi consiglio X Videos, ma non ora, o almeno non da qui alla prossima ora. Il porno in rete infatti è la nostra concorrenza, a maggior ragione a quest'ora. Noi cercheremo ovviamente di controprogrammarlo, difficilmente riusciremo a fare di meglio dello Squirt, ma ci proveremo. E a questo punto, caro popolo di Twitter, non deludetemi. Chiudetemi, voglio Squirt Trend Topping su Twitter, mi raccomando. Peraltro credo che sia la prima volta che venga detto Squirt con il logo della Rai. Entro nella storia di questa azienda, d'altronde Rai Mondo, cognome aziendalista. Squirt, ladies and gentlemen, Squirt, Rai Squirt. Abbiamo con noi uno dei vincitori del Festival di Sanremo. Allora, lo so che dite che la finale è stasera, quindi non si può ancora sapere, ma io lo so già chi è uno dei vincitori del Festival di Sanremo. Lo avete sentito? È Saverio Raimondo, il conduttore del Dopo Festival. Buonasera Saverio. Buonasera, buonasera a voi. Sì, vincitore involontario, perché vi assicuro non ho fatto nulla per meritarmi tutto questo. E quando parlo di tutto questo parlo del successo che sta avendo sul web il Dopo Festival, che stasera effettivamente giunge purtroppo alla sua ultima diretta streaming, perché siamo esclusivamente sul web, ricordo. Esatto, è stata un'esperienza. Io ti posso confessare che non è che ci puntassi tanto. Dico, ma sto Dopo Festival sul web, ma neanch'io, confesso, sapevo che eravamo dei pionieri, perché si tratta del primo vero programma che la Rai realizza sul web, quindi, come dire, era un po' terra di nessuno. Abbiamo detto proviamo, ci divertiamo, siamo diventati trend topic, stiamo ottenendo un riscontro incredibile. Io sinceramente sì, ci avevo puntato quello che avevo, ma non pensando di vincere, ho sbancato io. Allora, e Sabrina Nobile, ci Sabrina tengo a Nobile dire. Certo, e poi voglio anche citare Spinoza, è Stefano Andreoli, che poi è un mio amico, quindi non posso non ci dire. Ci mancherebbe, ecco. E Magalli, cioè comunque avevamo un cast di tutto rispetto, ammettiamolo, che effettivamente ha funzionato. E sono il primo ad essere stupito, lo dico subito. Grande libertà di linguaggio, sì. Lo dobbiamo dire, perché la tua stand-up comedy, ne abbiamo già parlato al Sabato del Villaggio, è senza filtri, tu parli, sì, di qualsiasi tema, senza, perché così deve essere la stand-up comedy. Così deve, vi ricordo, siamo in democrazia, c'è libertà di parola. Inoltre la satira è una cosa non seria, quindi non va presa sul serio. Non prendetemi mai sul serio, perché non sono una persona seria. Quindi qualunque cosa dica, anche se suona grave, non è grave perché non è seria. Ah, straordinario. Ma nessuno si è spaventato dopo i primi due minuti di Dopo Festival, in cui subito sei partito con un monologo praticamente sul porno? Allora, sì, tant'è vero che la Rai aveva armato dei cecchini ceceni lì nel casinò di Sanremo da cui andiamo in diretta, se non che il riscontro su Twitter è stato immediatamente talmente sorprendentemente positivo che hanno detto: fermi tutti, abbassate quei fucili, tocca fare buon viso a cattivo gioco. Eh sì, anche perché io non lo posso dire, ma ti eri inventato anche il nome di un canale Rai che non si può ripetere. Allora, siamo sul web. Sul web, lo sapete, c'è una tale libertà che nel momento in cui tu vai a fare un prodotto per il web non puoi non renderne conto di quella libertà, altrimenti sarebbe diventato un autogol. Quindi noi siamo andati a fare questo Dopo Festival esprimendoci con la libertà e la disinvoltura con la quale ci si esprime sul web. Risultato: ha avuto un successo che ci ha sorpreso, però che, se vogliamo, si spiega proprio da questa coerenza rispetto al suo essere sul web. E voilà. Salve a tutti! Salve! Salve a tutti! Se mi state vedendo, vuol dire che lo streaming della Rai funziona. Se lo streaming della Rai funziona, dovete ringraziare lo Spirito Santo, quello stesso Spirito Santo che ha dato 16 figli alla famiglia Anania, dà lo streaming alla Rai. Ecco perché non funziona. La puntata di ieri, infatti, del nostro Dopo Festival è stata funestata dai problemi tecnici. Spesso lo streaming non ha funzionato e molti momenti del nostro Dopo Festival non si sono visti in diretta. La Rai mi ha chiesto di chiedervi scusa per i momenti che invece si sono visti. A tal proposito, oggi in conferenza conferenza stampa si è tornati a parlare del fatto che ieri per diverse ore le puntate del nostro Dopo Festival sono sparite dal sito della RAI per poi essere rimesse. La RAI è tornata a chiarire che è stato un errore tecnico rimetterle sul sito. Dunque è innegabile che questo Dopo Festival abbia qualche piccolo problema tecnico, anche quando si vede lo streaming non funziona. Vi faccio un esempio, io nella realtà sono alto, mentre invece lo streaming della RAI mi fa basso. Io nella realtà ho una voce baritonale, mediterranea, sexy. Non ho questa voce qui, è lo streaming della RAI che fa sembrare la mia voce il verso di un delfino. Comunque, nonostante tutti questi problemi tecnici, chiedo, eccola qui l'inquadratura fissa alla Letterman senza stacchi, nonostante tutti questi problemi tecnici, il nostro Dopo Festival è consacrato come successo web, io di questo vi ringrazio, ma non eravate degli haters, degli odiatori. Il nostro Dopo Festival, hashtag Dopo Festival, è stato trending topic su Twitter tutta ieri notte, in cima, primo su tutti, primo su 10, qui ci tocca farci una... ma non si spiega, ma non si... com'è possibile? Tanti hanno detto, però a questo punto doveva essere il vero Dopo Festival in TV. Allora, io lo dico, su Rai 1 c'era Gigi Marzullo. Niente, il contrario, sono stata ospite pure io. Che devo dire, sono stata pure io ancora no, pensa. No, non ci posso credere. Ancora no, voglio un sottovoce con Saverio Raimondo. Certamente, con questa voce. No, bisognerebbe farlo. Allora, su Rai 1 c'era il Dopo Festival, diciamo il dopo Festival, sì, sì. Non attaccato, era lo sottovoce speciale Festival di Gigi Marzullo, e molti hanno detto, no, ma ci doveva essere il Dopo Festival del web, siamo allora, pronti? Allora, so che appunto quando il web dice l'avremmo voluto vedere in TV è una cosa bella e li ringrazio, però segnalo anche il fatto che la bellezza di questo Dopo Festival è stata proprio la sua forza di rottura, sorprendente quasi, se vogliamo. Questa forza è possibile solo sul web, non è possibile in televisione. Guardiamoci in faccia, lo sappiamo, certe cose in televisione non le si fanno dire, non le si possono fare. Quindi se vi piace questo Dopo Festival, questo Dopo Festival è costitutivamente web, non poteva essere televisivo. Quindi fatevi una connessione internet, accettate il fatto che il Dopo Festival va esclusivamente in diretta streaming sul web e ci vedete sul web. A volte la TV tradizionale rovina gli esperimenti del web, succede spesso con gli artisti e con i talenti che fanno le web series. Voi avete scoperto i Nirchiop. Beh, non li abbiamo scoperti noi, li ha scoperti la rete, appunto. Noi ne abbiamo parlato molto nella nostra RadioTube perché ci piacciono particolarmente. Voi li avete scovati, ancora non erano andati, forse stati proposti al grande pubblico. Li avete lasciati com'erano? Questo spesso è il difetto della TV. Sono d'accordo, appunto, proprio perché la TV generalista non può permettersi, magari per oggettive problematiche o per scelte discutibili ma comunque legittime, la TV non può permettersi quella libertà e quella forza. Ciò che funziona sul web va rispettato. Se non si può fare con la stessa forza e la stessa efficacia in televisione, va lasciato sul web. Quindi invito chi è forte sul web a non cercare la televisione, ma a cercare di ottenere ciò che si ottiene con la televisione sul web. Questa sera finisce il festival, finisce ai noi anche il Dopo Festival, ma noi Saverio Raimondo dove continuiamo a vederlo? In TV e dal vivo? Allora, dal vivo tenete d'occhio le mie pagine social, pubblicherò quando ci saranno delle date, tenete d'occhio il Comedy Central Cocktail Club all'Oppio Caffè a Roma. Sicuramente continuerete a vedermi su Comedy Central, dove è in corso Stand Up Comedy, la trasmissione interamente dedicata a questo genere, appunto, quello della Stand Up Comedy, dove guarda caso io mi ritrovo a finire di condurre il Dopo Festival di Sanremo sabato, oggi, e lunedì mi ritrovo in conduzione della terza puntata di Stand Up Comedy, quindi questa ascesa al ruolo di conduttore che proprio non mi si addice, però prosegue. Quindi sesso, religione, politica, qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa, comprese anche le cose più frivole, intendiamoci, non sono uno di quelli che si deve per forza parlare di argomenti tabù, si può parlare anche, non so, delle scarpe, perché no, parliamo di scarpe. Fantastico, faremo una Stand Up Comedy sulle scarpe. grazie Saverio Raimondo. Grazie a te, grazie a voi, grazie. Il sabato del villaggio. concludere questo appuntamento speciale con il Sabato del Villaggio da Sanremo, siamo pronti per la serata finale del festival, pronti a metterci, anche se stiamo sul divano, il vestito da sera. Allora andiamo a farci dare lezioni di stile da un personaggio popolarissimo della TV italiana. Ma sei un disastro, ma Giulia, non è possibile. Vedere. Quando tu ti affaccerai sul mondo del lavoro, io non ti farei progettare neanche lo scaldabagno di casa mia, manco lo sciacquone. Magra, magra, come uno yogurt senza grassi. Dove studi? Sulle montagne delle... Giulia, ma conciata così sei proprio un rospetto. E no. In tutta franchezza non me la sento proprio di fare il tuo principe azzurro. Tremende. Non sta così male, sta malissimo. Ma dai. Ci vai a dormire con questo, vero? Va con questo. Io vado, ciao ragazzi. Ma quando tu lo indossi, non ti si forma il voto intorno? No. Sono coraggiosi i tuoi amici. Questa mise sa proprio di stantio. Non lo so, di vecchio. Sì, questo per far delle coperte da cavallo è perfetto. Non sembri neanche tu. No. In effetti è il manichino. Allora. Sei uno scherzo della natura. Il suo shopping sarà un disastro. Lei è entrata in un negozio solo con Jersey. Jersey non è una tua amica, eh? No. E questa manica è fatta? Queste immagini sono pietose. Preferisco leggermi un libro di Kafka. No. Compra. No. Bocciata. Eccoci qua, ci ritrasferiamo allora nella sala stampa del Teatro Ariston. Purtroppo la radio non rende giustizia alla bellezza, all'eleganza, all'uomo che ho di fronte. Ci metterei troppo tempo a descrivervi com'è vestito, ma meglio di lui non si può essere vestito nessuno. Enzo Micio, buonasera Enzo. Buonasera, ma cosa dici? Ho preso una tovaglietta da osteria stamattina per vestirmi, il mio check colorato. Grazie comunque, grazie per l'invito. Tu sei un fenomeno televisivo ormai da un bel po' di tempo, ormai la gente ti riconosce, ti ferma per gli autografi, selfie anche qui a Sanremo. Sì, sono sempre affettuosi i miei fan, sono tanti, e poi la cosa che così mi fa molto piacere è che sono trasversali, c'è il bambino ma c'è la nonna, ci sono i ragazzini, quindi uomini e le bambine, quindi questo veramente fa piacere. Facciamo probabilmente una televisione che... in un certo senso ha portato un messaggio nuovo, no? ha cambiato un po' le cose, in real time siamo stati pionieri. Ti chiedo se come la gente ha imparato a cucinare, a impiattare con i programmi di cucina, se grazie ai programmi come il tuo la gente ha imparato a coltivare il gusto nel vestirsi. Spero di sì, perché non sono solamente dei programmi divertenti, ma sono anche dei programmi che hanno un messaggio poi alla fine, no? Un messaggio che non è quello della moda fine a se stesso, ma è un messaggio di educare al buon gusto, che non è una cosa così scontata. Quindi cerchiamo sempre in modo divertente, ironico, a volte anche dissacrante, massacrando le mie vittime, ma di lasciare poi alla fine un messaggio, qualcosa di buono, una cosa positiva, una speranza che si può essere di buon gusto, eleganti, indipendentemente dai chili, dai soldi, dal peso, che sono tutti dei fattori che non influenzano affatto il buon gusto. Che tocco hai dato tu a questo Sanremo? Perché hai lavorato qua, oltre a ti ho sentito cantare, perché stai facendo anche le prove poco fa. Qual è stato il tuo sguardo su Sanremo qui per Real Time? No, uno sguardo divertente, cioè sono uscito un po' dagli schemi classici e quindi mi sono messo a fare un fuori festival simpatico, coinvolgendo un po' i big del palco dell'Ariston, cercando anche di smorzare la tensione, perché loro si devono esibire, il palco dell'Ariston mette emozione, è importante, eccetera, e poi sono andato a pescare quelli che sono i classici sanremese, il red carpet, la folla, i fan, quelli che sono qua da 65 anni, probabilmente, che hanno visto cantare tutti, e poi anche un po' di lavoro serio nelle conferenze stampa, e i look, le critiche ai look, devo dire che quest'anno ne stiamo vedendo di tutti i colori, quindi un po' di tutto per confezionare queste tre bellissime puntate. L'ultima, dopo la premiazione del vincitore, andrà in onda domenica alle 17:10 sempre su Real Time. Enzo, non posso non chiedertelo se qualcuno ti ha colpito particolarmente come stile, perché soprattutto le signore, ma non solo, non posso non chiederlo a te, perché tutti abbiamo dei gusti particolari, ma tu sei arbiter elegantiarum. Grazie per questa responsabilità. Ovviamente il gusto è molto soggettivo, no? Io dico sempre penso, credo, secondo me, aggiungo queste cose perché poi non è che io abbia sempre ragione o sempre torto. Dico che il gusto può essere soggettivo, ma c'è la bellezza che secondo me ha una base di oggettività. C'è poco da fare e non sono smentibile in questo. Detto ciò, dico che ci sono state delle cose che mi sono piaciute molto e certe cose che mi hanno anche molto sorpreso, per esempio Tatangelo. L'Anna Tatangelo è una donna scicchissima, con questo black and white, questo black and color, bello, con una scollatura profonda ma non volgare, lei è un fisico pazzesco, cioè una donna elegante. Non c'era proprio niente da dire, quindi via i pregiudizi, perché sono uno che li detesta. Poi, vabbè, Rocio, come si chiama, la bella. Vabbè, lì è una battaglia abbastanza facile. Sì, è facile così, eh? È abbastanza facile, qualsiasi cosa le metti. Credo che le sarebbe stato a pennello. Sono curiosa di sapere, ad esempio, Chiara, Annalisa, cosa pensi di loro? Chiara ha aperto il festival e mi ha colpito tantissimo. Infatti io l'ho detto, lei è venuta spesso negli studi di Radio Italia, dove ho questa mia rubrica di Radio Italia Style. E ho detto, Chiara, tu hai colpito nel segno, hai consapevolezza, coraggio di cambiare, niente più ragazzina, donna, se ne frega dei chili. Questo bellissimo total yellow che portava secondo me con grande grazia le donava meraviglia. Bella la sua zeppa, disinvolta e consapevole, quindi mi è piaciuta molto. Annalisa un filo meno, non mi è piaciuto il suo beauty, non mi sono piaciuti i suoi capelli, però ho parlato anche con lei e abbiamo una speranza, abbiamo ancora altre serate, insomma. A me piace molto Malika, tu che ne pensi? Malika, io sono un fan di Malika, mi piace molto la sua sonorità, al di là del look, lei indossava un albino, mi è piaciuto molto anche questo suo nuovo biondo eyes, un po' più freddo rispetto agli altri anni, che era un po' più giallognolo, un po' più caldo, mi è piaciuto, l'ho trovato ancora più sofisticato, se è possibile, e non posso non parlarti della mia cara Nina Zilli. Lei gioca tanto, si diverte tanto. Lei si diverte, ma perché sa che lei è consapevole, perché lei può, perché lei ha l'attitude che non si insegna, o ce l'hai o non ce l'hai, e lei ce l'ha. Bellissima col suo kimono di Vivienne Westwood, con le sue movenze, col suo charme, padroneggia su quel palco con grande grazia. Brava Nina. Ho solo un'ultima domanda, sì. Perché io chiedo sempre dei consigli ai miei esperti e ai miei ospiti per gli ascoltatori. Ma se noi dovessimo andare una sera a assistere al Festival di Sanremo, da pubblico, cosa ci dobbiamo mettere? Le paillette, la pelliccia, le stole, non lo so. È divertentissimo, perché tu vedi che molto del festival si svolge proprio nelle strade, è il fuori, le signore che si preparano per la serata, le fan, eccetera. E uno di questi aspetti simpatici, ironici, è proprio questo del look delle signore, ne vedi di tutti i colori. C'è gente che aspetta il festival, è il nostro red carpet, è la nostra serata degli ospiti, quindi questi tirano fuori di tutto e di più. Pellicce pazzeschi, abiti improbabili, volant, strascichi, paillette. E io ti dico, ci sta tutto. Oh, che meraviglia. Ma perché vuoi distruggere un sogno? Loro sì che possono. Sempre con questa chiave, secondo me, anche un po' ironica, perché sono sottili le donne che ho visto qui a Sanremo. Hanno un'ironia e le piace molto giocare con questa cosa. Sanno che si vestono a festa, ma sono giustificate dal fatto che vanno a Sanremo, perché Sanremo è Sanremo e perché Sanremo è l'evento più importante che abbiamo in Italia dal punto di vista mediatico e musicale. Ed è tutto per questo appuntamento speciale col Sabato del Villaggio, per questo sabato in onda da Sanremo.